in your arms, too late to beg you or cancel it, though I know it must be the killing time. Unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ritornano gli ospiti in studio direttamente da Parma. Ci è venuta a trovare una formazione molto particolare che come al solito presenterà il loro lavoro, che è uscito in questo caso già da un anno. Ragazzi, a voi le presentazioni di rito. Ciao a tutti, ciao RCS, ciao Jean-Luc. Noi siamo i No Keys. Io sono Rico. Io sono Luca. Io sono il Gut. I No Keys vieleggiano su una sonorità new wave, allora doverosa una puntata con Vintage List dedicata nella prima parte alla dark wave degli anni 80 inglese, con alcuni dei protagonisti di quell'epoca. Siamo partiti con gli Echo and the Bunnymen, che dal disco Ocean Rain del 1984 ci hanno fatto ascoltare il brano The Killing Moon, un classico di una band che, seppur meno seguita, continua ancora oggi il suo cammino. Sì. Guarda, l'apertura, come ti dicevo prima, fuori onda, è stata strepitosa. Almeno io personalmente amo Echo and the Bunnymen tantissimo. E forse, se vuoi un po' banalmente, se vuoi no, questo disco in particolare. Il fatto è che hanno delle sonorità che in qualche maniera sentiamo molto nostre. Sonorità noir e poi anche un lavoro sulle ritmiche molto interessante, sulle batterie, quindi insomma siamo proprio partiti bene per quanto ci riguarda. Una cosa che a me personalmente piace in modo particolare di questa canzone è che in un certo senso mi dà l'anticipo di certe atmosfere, la Quentin Tarantino, la Tico and the Tarantula con certe chitarre. Beh, infatti questa canzone è stata scelta per il film Donnie Darko. Appunto, però è proprio questa atmosfera veramente sporca in certi aspetti. No Keys è una band che immagino sia assieme da molto tempo. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Beh, No Keys nasce nel 2002 ufficialmente come formazione compatta e con questo progetto. Veniamo da esperienze ovviamente precedenti, ma è un passato di cui non ci interessiamo molto. Pensiamo molto al presente, siamo molto proiettati da oggi a domani. Il nome, beh, questa è una domanda veramente interessante, ma la risposta non so se sarà altrettanto interessante. È nato veramente per una coincidenza. Quando siamo entrati in studio a registrare i primissimi EP, eravamo a Milano e ancora non avevamo un nome. Di conseguenza il tecnico del mastering ha applicato sul nostro CD la scritta No Keys, intendendo dire non ci sono tastiere. E da allora, quando hanno chiamato il mastering No Keys, abbiamo detto: beh, ma chi sono questi No Keys? E siete voi. Ok, perfetto. Da lì il nome è stato acquisito. Impossibile non citare tra la band Dark Wave e Siouxsie and the Banshees. Dopo gli esordi nel tumultuoso mondo punk, la band di Siouxsie si orienta verso sonorità più buie e complesse. Dal disco Juju del 1981 il brano Arabian Nights. Oggi Siouxsie sta continuando la sua attività da solista con buoni esiti, però credo che la nostalgia per questa band sia grande. Sì, secondo me è molto interessante, come tante band che sono nate subito dopo, comunque in concomitanza con l'esplosione del punk più conosciuta, si siano poi costruite un seguito davvero incredibile, cioè sono diventati dei fenomeni di culto che sono riusciti a sopravvivere agli anni probabilmente ancora più, che ne so, di nomi che al momento erano più importanti. E tra l'altro, vabbè, Siouxsie aveva aveva soprattutto con i Banshee un carisma, insomma, c'era un'energia sul palco abbastanza incredibile. Quindi forse questa può essere, ecco, una delle ragioni che mi vengono in mente così, su due piedi. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e quali le reazioni da caldo del pubblico a fine concerto? Devo dire che, come hai sottolineato prima, suonando insieme da molto tempo, sul palco c'è sempre un'intesa molto grande, molto profonda. E devo dire che il pubblico apprezza e percepisce questa intesa e, insomma, gradisce assolutamente. Alla fine dei concerti siamo sempre circondati da persone che ci manifestano il loro apprezzamento, soprattutto perché non si aspetterebbero così tanta energia da una formazione del genere, che in definitiva è abbastanza ridotta. Ma se posso aggiungere una cosa, ecco, far muovere il pubblico, nel senso di farlo venire ai concerti, è complicatissimo. Però dopo, effettivamente, quelli che vengono, i concerti sembrano gustarseli. Non dico solo i nostri, parlo anche da spettatore, da persona che va ai concerti. Io cerco di andare il più possibile a concerti. E insomma, facendo quello sforzo in più e andando, poi si viene anche ricompensati. Quindi questo vorrebbe anche essere tutto sommato un appello a muoversi. Un invito, perché no? sì. E non potevano mancare i Cure, tra i più fortunati eredi di quelle epoche, attivissimi ancora oggi con tanti concerti. Torniamo con loro al primo disco del 1980, Boys Don't Cry, con Plastic Passion. Noi ci ritroveremo subito dopo gli spot con i No Kiss.